Con Muja Maraini per parlare del suo documentario Haiku on a Plum Tree, che sarà a Roma al Cinema Farnese il prossimo 3 ottobre. Muja, ben trovata. Ci Buonasera, salve. descrivi il tuo lavoro? Haiku è un documentario, però per me è un film che racconta una storia molto, molto personale. Racconta la storia di mia madre, Toni Maraini, mia zia Dacia, e mia zia Yuki, che ora non c'è più, quando erano bambine, con i loro genitori, i miei nonni Topazi Aliata e Fosco Maraini, si sono ritrovati in un campo di prigionia in Giappone, a Nagoya, per 2 anni. E quindi questa è la storia, la loro storia, con le loro testimonianze e anche un mio viaggio in Giappone per ritrovare i luoghi della loro memoria. Ecco. Com'era nata l'esigenza di farne un documentario? Beh, sono un po' storie che ho sempre sentito, abbiamo sempre sentito in famiglia, la mia generazione, cioè, mia sorella, mia cugina, e abbiamo sempre sentito questi aneddoti, queste storie un po' epiche, un po' da favola. Però poi da grande quando ho letto il diario di prigionia di mia nonna di Topazia, mi sono resa conto che era molto più, non era proprio una favola, e ho capito che c'era un trauma che forse in famiglia, io ho sempre sentito in tutte le famiglie c'è nel non detto, no? E ho cercato di capire e di parlarne con loro e soprattutto quello che ho sentito il bisogno di registrare la testimonianza di mia nonna centenaria. Era importante per me che lei lasciasse questa sua testimonianza, ecco. Quello che fa più impressione nel documentario è il Giappone oggi, in cui questo tipo di memoria è sepolta. Uno dei ricercatori di questo campo di prigionia dice: noi giapponesi pensiamo di essere le uniche vittime, non abbiamo imparato da questa storia. Però devo dire che i giapponesi sono stati molto aperti a questa mia ricerca. Io non me l'aspettavo, sinceramente. Però questa generazione, la nuova, la giovane, la generazione mia, ma anche più giovane, hanno proprio voglia di sapere, di imparare, di capire. Appunto, come dicevo prima, era importante per me avere questa testimonianza, sentire la testimonianza diretta di mia nonna che ha vissuto tutte queste vicende. Lei la storia l'ha vissuta, ma anche Dacia, mia madre, nel film ci sono le loro testimonianze molto commoventi per me, almeno. È una storia che è personale, sì, però fa anche parte di una storia nostra collettiva, sia in Italia che in Giappone, e questo loro l'hanno capito. Il film adesso, tra l'altro, è stato proiettato a Nagoya, proprio lì dove c'erano stati i campi, e mi dicono, mi hanno mandato le foto delle code fuori dal cinema, e quindi c'è stata veramente una grande curiosità e una grande accoglienza. L'altro aspetto che fa effetto è quella scelta dei tuoi nonni che, in nome di una libertà di scelta, una scelta profondamente etica, decidono di dire no al regime e anche a quella dichiarazione che gli sottopongono i giapponesi, mettendo a rischio loro stessi e le loro figlie, però difendendo questa libertà di scelta. Sì, e forse più che altro, sì, da nipote, da figlia ho sentito il bisogno di capire questa loro scelta. Cosa avrei fatto io? Anch'io sono madre di 2 figli e mi sono sempre chiesta, ma cosa avrei fatto io? Firmare come formalità per proteggere la mia famiglia, per proteggere i miei figli, o rifiutare di firmare per un regime al quale non appartengo, non credo, non, E quindi questa è una, e forse adesso ci dobbiamo un po' tutti domandare, farci queste domande, perché siamo diventati un pochino troppo passivi. E l'altra cosa molto importante alla quale mia nonna ci teneva moltissimo, infatti lo dice nel film, noi siamo stati separati, cioè lei ha deciso separatamente da mio nonno Fosco di non firmare. Forse all'epoca ancora non si sapeva delle atrocità, di quello che sarebbe potuto accadere. Forse loro pensavano che, non lo so, che sarebbero rimasti in arresto domiciliare, cioè non lo so. Però mia nonna ha sempre detto che era importante rimanere coerente con le nostre idee. Se no, sarebbe stata una grande menzogna. Sì. Qual è stato l'impressione più forte, l'insegnamento che hai tratto da tutta questa ricerca? Ah, abbiamo tempo di parlare. Beh, per me è stato un lavoro fondamentale, penso anche per tutti noi in famiglia. E devo dire che sono stata fortunata che mia nonna abbia aspettato fino ai suoi 102 anni. E lei, io sono convinta che lei abbia aspettato la fine, che io finicessi il progetto. Io, insomma, lei ha aspettato il mio rientro dal Giappone. È stata un'elaborazione per tutti di un lutto. Musa, e dopo questa proiezione al Farnese del 3 ottobre, che percorso farà il tuo lavoro? Allora, sto lavorando su un paio di sceneggiature. In questo momento sto scrivendo, ma non sono documentari, sono due progetti, vedremo poi quale andrà avanti. E ho bisogno di parlare d'altro, di allontanarmi un po' dalla famiglia, dopo questa full immersion. Senti, e il tuo documentario comunque avrà un'uscita nazionale, un passaggio televisivo? Speriamo di sì. Per il passaggio televisivo, sì, ancora non sappiamo, però mi auguro che ci sia anche, sì, un passaggio in televisione. Adesso ci saranno altre proiezioni all'Istituto Giapponese qui a Roma, in vari cinema. Beh, c'è stato Firenze, adesso sono appena tornata da Palermo, Ancona. Ecco, per seguire proprio questo calendario, hai dei riferimenti web per Allora, poter. si può andare, se andate sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook, Haiku on a Plum Tree, ci sono tutte le date, del nostro tour. Bene, allora ricordiamo intanto la proiezione a Roma al Cinema Farnese il prossimo 3 ottobre. Un saluto e un ringraziamento alla regista Musa Maraini. Musa, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi. Arrivederci.